siamo qui. M, è logico, non mi sia. Ma perché chi è la M? Vabbè, fate che pizza, papà, io vaccino ripeto, l'apparato è vecchiotto, per cui facciamo del nostro meglio. Va bene, però è più prevista. Già io sento meglio io che voi, di qua. Io già lo sento, ma prima era Santiago 3, poi c'è già Santiago 0, poi non ho capito cosa, magari stanno lavorando l'apparato in modo arratto. Poi me ne vanno per 10, sapete che arrivo a 7, lo sento più bene io che sono qua a Cadorazzi che voi. Beh, qui è più coperto, prova a chiedervi che antenna montate sul tetto, magari si tratta di qualche boomerang. Non lo so, che antenna stai usando, Ciro? Saverio, ci sei ancora? No, vicino. E Alessio? Sì, ti ascolto ancora. Ti ho chiesto che antenna stai usando, antenna di macchina o antenna per TV fissa? Giro, che antenna stai usando? Ho toccato le RF game, se no non ci senti più, ci attivo il segnale e non ci ascolti più. Getto il microfonico, minimo. Va bene. Quindi magari non riceve e certe volte non esce il radio. Infatti certe volte non esce il radio. Un casino adesso. Paura. Ma comunque arriva, almeno di radio arriva, quando esce. Gianna B. Sanverio, quanto stai mangiando qualche panino? Che hai mangiato sta quello Sanverio? Mi sto cambiando, vado a comprarmi le sigarette. Ah, stavi facendo il conteggio degli spiccioli per comprarti le sigarette. Spiccioli, c'è il BM, adesso mi sto vestendo. Papagava, avantitore. Comprati il tabacco, salve. Che risparmi, tanto hanno mercato il tabacco e le sigarette no, cazzo, poi ogni 22, non vedi gente. Vado apposta, Ale, tutto vado apposta. Sì, ma il tabacco ti ammazza, cazzo, pure con il frigorifero. Costava 2 euro, 2 euro, aspetta, prima 2,20 da 20 grammi, poi l'altro i rocchi 40 grammi, la facciamo pagare 3 euro e 80, adesso l'hanno salito a 5 euro. Figurati, 40 grammi. Come l'ho visto che tutti compravano tabacco con sigarette, se ne si sono stati all'impicco. 5 euro a dire, un'ora buona. 3 euro hanno aumentato, vanno bene, ragazzi. L'ho visto. Come l'ho visto che si vende un bel tabacco, allora poi gli ha dato il track per fare i soldi. Se il tabacco invece non compra nessuno, allora lo abbassano. Sono carente di sigarette, purtroppo è un vizio maledetto, e quindi anche se c'è l'altra al prezzo che vogliono, noi li prendiamo sempre, Ti fumo la birra, costa di meno, e devi riprendere bagazze speciali, e fai bene, una latina a 4-5 centesimi, quanto io voglio che te ne esco. E questo mandami che ha preso che mandevo, ho preso una, come si chiama, di grande vinci, cazzo, di così, grande perdita, da 7,5, di mantello. E a volte c'è uno che ha vinto davanti a me, mi stava arrebattando, dice, mi sembra che non ha fatto niente, cosa non ha fatto niente? Ha vinto, dice, 100.000 euro, dato che non ha fatto niente, ha detto. Ma che male ci viene? Altre volte può succedere qualche cazzo di miracolo. Quello bisogna avere, i soldi vanno con i soldi. Puro di abelo. E qui già ne hanno vinto 100.000 euro da poco lo stesso. Una tipa che vinceva sempre, ogni volta che andava lì, cazzo, vinceva 100 euro. L'ultima ha vinto 1.000 euro. Avete i soldi vanno con i soldi. Mi sono confuso, no? 100.000 ha vinto, sono buoni, almeno non ha problemi per fare la spesa. per almeno 3-4 anni. E anche difficile, diciamo, mantenere bene. Ne avessi vinti io almeno 100.000 euro, mi sarei preso una campagna con la Galotta, avrei aspettato il 2012, mi sarei infilato dentro la Galotta, a buio, quello che succede succede, avrei fatto una scorta di viveri. La Galotta, la Bibbia, ha usato la Bibbia. E là ce l'abbiamo la grotta, la casa che stiamo pagando degli tassi, di grotta di quella mia cura. E c'è un sacco di gente che la grotta si è fatto un bel appartamento dentro me, e non c'ha né freddo né caldo, sta bene. Chi non paga un cazzo, le tasse di nulla. Appunto, paga le tasse di nulla. Fuori per i sovrentati ingresso della grotta, dentro vedo un bel appartamento fatto in marmo. Casino, gatto, che tocca di prenderci cavallo, gatto, per uscire in certi punti di quella grotta. Sì, se lo scoprire, sì, è bello fare una cosa del genere. Tutto stanno bene. E perché i primissimi prima erano così? Ma poi tu dici, non male, si può scegliere anche in mago di annuncio. Tu stiamo in cose che è tutto grotto e me. Ci sono le pizzerie dentro le grotte, non mai viste in Corsica. Ma mano di c'è un grande discorso che hanno le grotte, sì. Enorme, con le vetrate, si vede il mare. Sì, sono andato, ormai c'è una notte in vita mia, la verità. Sono andato 4 mesi fa lì per da un amico. Ha giurito questa cosa, ho ritrovato, metto dentro la grotta, ha giurito, datevi che lì va la tua, quel tuffo che hai preso, quanto tuffo vuoi, avevi visto? Il giorno che si sbriccia la verità che rimane solo una pezzata. Beh, come la grotta infatti, c'è roba, ma è pure le mani e cose. In tuffo è tutto, non è visto che tutto quanto tuffo. Si vede che già regolo, secondo me, la canturetta. Non bello, le mie lì c'è conservato tutto, l'unica cosa brutta che c'hanno quelle strade, mamma mia, sono strette, ci passano due macchine giuste e giuste, sembra una strada di campagna, sembra, San Giorgio, sembra una strada di punti San Giorgio. Ma sono strette, da. Purtroppo, ma dite che faccio, ognuno fa i suoi ieri, buon. C'è chi si fa la villa, c'è chi si fa... c'è chi di parte una casa piccola. Sì, tutto villa, non c'è erba in nessun posto. Lungo la strada trovi i tubi di incendio, pensate, quindi mi sembra 5-6 km. Quindi non vedi proprio niente. Erba non viene, non piglia fuoco neanche una campagna perché li tagliano tutto, dentro e fuori. O se così anche in Sardegna sarebbe stato bello. Lo mantengono bene, in poche parole, in modo che non parte il fuoco. Quello c'è una manutenzione, ci vuole, sì. In Sardegna già lo fanno, Però da voi bisogna... hai gente che appicca il fuoco, cazzo, la razza di malattia che ci viene, Ma tu lo fanno per fare prima. Lo scorso quando ho fatto un casino con zona, guardate, ho bruciato pochi monti, alberi, un casino, Sì, io mi ricordo che può fare. Non c'era un'estate, perché quando abitavo in Galizia non volevo prendere fuoco in Sassari, dove c'era il coso, vicino alle gallerie, oppure a Tissi, a Usino, a Ussi, sempre fuoco era. Quando mi ho fatto il militare, altro sempre anticipi, tutti i campi, un casino quell'anno che ho fatto il militare. No, è bombone, no? Siamo, c'è. Poi era la protezione civile, la canna usa pure giocarci là, una brava amici. Andava cosa per spendere, ma ha dato la gente che la picca, cosa vuoi fare? Sono troppi piromani. Ma lui stesso mette un fuoco a fianco. Attento, buon comunio! Fate schifo, da. Cioè, vabbè, brucia, ma tu, gatto, ma vero... già voglio arrestarti quando fanno quelle scuse, da. Buttate le chiavi pure, cazzo. Sospensione Pomponio, cambio. Sì, ciao Antonio, salutoni. Paolo Aurore in casa di Alessio. Come mai l'FM, Alessio? Così, ho sentito a voi che è l'FM, cosa vuoi che sono entrato in FM? Poi c'è anche meglio in FM, la verità scritta. Non c'è casino e nulla, c'è uno squarcio inserito, si è arrivato di usare un VHF, ha preso già un baracchino. Ciao, in compagnia di chi si spera io stiamo in polire. Sono in compagnia di Tore, Led Zeppelin, Sanverio, c'è che si sta vestendo per andare a comprare le sigarette e io. E poi c'era Ciro, la produttore, se non so se si è sistemato tutto. C'è la porta Torres? Ciro. Ciro, anche da parte mia, se mi copri. Da questa parte la stazione Antonio Bongolo. Ciro. Ciro, senti la bomba. Papà, a me ascolti Ciro, io ti sento un po' male, ti sento, Non riesco a capire il perché, sento la modulazione un po' disturbata. Santiago è basso. No, lo sto modulando, quella è la propagazione di AM senz'altro. Deve essere sparito Ciro. Avanti Tore. Non ho capito chi era l'amico, non lo sento niente, Bombo. Di radio appena, ma non capisco nulla. E Antonio Bombolo. Sono zero radio 2 incomprensibile. Buonasera Tore. E salutoni anche a quel Salverio se c'è frequenza, chi so che ha suo cuore senza intendirlo. Salverio, Bisese. Aito. Come ti arrivo lì sopra o in FM o va. O Alessio? Salverio è passato all'Alessio da Pacco. 9:20 arrivi Anto. Sono più forte di Tore. No, Tore è più forte di te. Ce l'ho qui di fronte in pratica. Ciao, ma pure tu mi stai arrivando a bomba, Guarda, senza nessun problema. 9:10 Radio 5, K. Questa blaze in FM c'è bene, me. Sono lì di muri in FM questi apparecchi, Anto. Ciao. Intendeva in occhi, ciao Grillo, avanti Tore. Più bello l'FM, sembra un VHF, la luce. Io ho la luce. Più bello della M. Però della M, sì. Questo può fare anche voi parecchie cose in FM. Ho visto che ci sono gli spagnoli usano i punti in FM, sulla 27. Quando c'è propagazione sento il ponte che ci sono sul 30 c'è un ponte ripetitore, poi su un altro canale, però non so di la frequenza d'ingresso, se no l'avrei usata a scrocco. Ho preso un convertitore di frequenza della Geloso di quelli antichi che ci attaccano agli apparati del WC 30, no? E si converte la frequenza 144-40, cioè è a valvole, a valvolette, non vi sta. Cazzo, ma mi riceve bene quella qua. Ah, un transverter c'hai. Cappa. Quelli già funzionano bene già. Non si usano più ormai quelli dei transverter, manco a regalo non sempre ce ne sono più in giro. Prima tutti usavano 11-40-45, adesso non ho più visto transverter in giro in vendita. Sono della Geloso addirittura, a valvolette, la Luvistar, cioè io non metto un apparato e ricevo e basta, quella delle radioamatori di caffè. Ah, ho capito, la gente che vendeva quelli, si pensavano sopra i portati, invece le portate faceva da ricevitore, eh? Si agganciava l'antenna, l'alimentazione e riceveva la VHF oppure la frequenza marina oppure 40 metri. Non più bisogna che vedi da quel coso, sono tutti i non la stanno più facendo. Veloce, immaginati tu, sarà delle anni 30, nuovo scatolato l'avevo preso. 50 euro dalla Milan lo stavo là. Cazzo, ti devo dire, l'ho provato una bomba, ogni ricezione. L'ho provato un ricevitore, un mamma che ha confronto. Cappa, io ho invece un coso qui, no? Non funziona. È un casuetta che fa 27 della VHF, però fa questa marina. So che il relay riscatta, però non riceve nulla, capito? Ho portato il PLN interno, ma non c'è nulla, è nuovo. Non so cosa diavolo ci abbia. È nuovo, della, un kit in pratica. È funzionato prima di installare, sai dove funzionava? No, l'hai stato trovato dalla mondezza questa cosa, insieme a due apparecchi 27, un paio di lineari c'erano, eccetera, eccetera. Me l'avevo portati qua a casa, me l'avevo regalati. Questo trasmettere l'avrebbero sostenuto, ma l'avevo morto sempre. Capito? Grazie, lo riparo perché non mi aiutate nulla. Anche il strumento sono metà a posto, io glielo regalo e me l'ha fottuto da me. È nuovo. Poche parole, scatta il relì e non va a ricezione, così è. E sì, trasmissione va. No, digitali contrario, magari c'è un doppio relì poco. Sono relì, appena lo accendi scatta uno. Poi l'altro si portate e scatta. Ma forse proprio quando si è in ricezione scatta da una parte e trasmesso dall'altra. Magari c'è in parte. Non lo so. Ti ripeto, se quello che lo vuole glielo regalo, non è fatto niente. Non faccio nulla io di questa cosa qua. Non ho capito, che frequenza fa con la roba? Un trasmettere ci può dire che tu lo colleghi a un apparato da 30 e poi aspetta quanto si aggancia al baracchino, poi da lì va direttamente in frequenza VHF Maria, c'è tutti i canali marini, c'è soprattutto 16, 26 eccetera eccetera, c'è scritto, è della, aspetta, dico che marca è LB 156 trasmettere VHF, c'è scritto Electronic System. Ma non è roba a quarti, no? Quello non va a quarti, no? No, non è a quarti. C'è un PLL dentro. E io li ho visti certi inverti, questi sono quarti. Cappa. Ma se quelli usavano prima OCP da, tipo Lincoln, l'altra a Prati. Comunque c'è un metro dentro, c'è un metro programmabile, poi c'è un l'integrato PLL che è il 6130 mi pare, capito? E basta, lì Beato cosa mi stavi chiedendo? Stavo chiedendo cosa è questo conto che state parlando? È un transverter in pratica, tu c'hai un apparecchio 27 che lo usi in AM/FM e lui da lì ti porta quando lo accendi in frequenza VHF marino, capito? Cioè tutti i canali marini, in pratica lo vai in un'altra frequenza diversa, sempre usando un baracchino solo 27. Stavo dicendo, ma ti porta solo lì o ti fa anche altre bande? No, solo in VHF marino fa, e basta. Non è quel trasmettere che fa 11,45, che c'ha due bande, pratica fa 7 e 6 MHz. Questo fa solo 156 e 100, mi sembra 160, tipo 158, non mi ricordo. poco affitto. Cioè praticamente così è solo marino. Esatto, solo marino. Cioè canale 6, canale 8, 9, 12, 16, 25, 26, 27, 72, 84, 88 e boh, non c'è altro. Comunque qualche può essere interessante, magari qualcuno che ha qualche imbarcazione, eccetera, eccetera. Insomma, anche quello l'ascolti con un ricevuto, proprio per ascoltare il meteo e quello l'ascolti con il ricevitore. E oramai uno prende il ricevitore via per fare certe cose anche. E questo non è solo ricevitore, questo fa transizione di ricezione in pratica. Cioè faceva, se non fa niente. Transizione va ricezione no. Ripida trattore un attimo. No, non lo copio. Ah,